Ed ora il dialogo. Allora, avete ancora tempo per visitare il padiglione prima di pranzo? Sì. Io accompagno Sara e tu, Andrea, rimani con Marina allo stand. Ma io... Ci vediamo qui all'1 per il pranzo. Bene, a dopo. Vieni, Andrea, ho bisogno del tuo aiuto. Ma io... So, while Andrea remains on the stand with Marina, Sara and Lorenzo are going to visit the stands of some of the Chianti Classico producers. Andrea doesn't want to stay, but Marina needs his help. Vieni, Andrea. Ho bisogno del tuo aiuto. At 1 o'clock, the four of them will meet up for lunch, and in Greve, that's unlikely to be just a sandwich.